Era stato convocato per Luigi Pardo, ma non si è presentato. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Tutto tranquillo, eh? Ma di che ti preoccupi? Di tutto. Ehi! Non lo ha fatto apposta. Invece l'ho fatto apposta. Io pure. Ne avevamo parlato che sarebbe stata una partita difficile, perché anche se la Lazio non attraversa un buon momento, dispone di giocatori che comunque possono inventare il gol in qualsiasi momento. È stata proprio una serata senza la massima concentrazione, questo noi non possiamo permettercelo purtroppo. Al di là dei giocatori che hanno giocato, che comunque tutti quelli che hanno giocato hanno sempre fatto bene. Non c'era molta concentrazione dall'inizio, secondo me, perché anche il primo gol è una disattenzione totale, quindi eravamo troppo disattenti. È una squadra in testa alla classifica, ripeto, può anche giocare male, può capitare e non meritare di vincere, però insomma bisogna essere furbi e sapere che si può anche finire in parità. Allora, io non so se domenica sera Mancini e Jovetic si sono appiccicati al muro prima che arrivasse Guarin, se Melo ha litigato con Icardi, se Mancini ha davvero detto che voleva cambiarli tutti, o se qualcuno ha detto a Mancini perché non hai messo Brozovic e Ljajic all'inizio. Adesso io non lo so questa roba, però devo dire, c'è qui anche l'amico Pierre, che questo processo di trasformazione in una notte da isola felice a inferno, perché oggi c'è anche chi ha scritto che l'Inter è un inferno, di una squadra che è capolista, mi sorprende un po', Pier. Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, sì, sicuramente sorprende, perché insomma il calcio è liquido, l'abbiamo detto mille volte, allo sfinimento, quindi è ovvio che possa vivere di mutazioni improvvise di umori. Sì, ma questa è una mutazione genetica. Sì, cioè, qui vabbè, insomma, qui essenzialmente c'è l'indiscrezione di un giornale autorevole, importante come la Gazzetta, che dice che è avvenuto qualcosa, diciamo, di pesante a livello di discussione, di litigio, quasi alle mani, da quello che abbiamo appreso. È una ricostruzione, devo dire, molto circostanziata, no? Quindi si fa fatica a pensare che sia una bufala, però sì, insomma, è difficile che insomma si possa dire che non è avvenuto niente. Sì, detto questo, non sarà avvenuto niente. Io, cioè, secondo me non cambia molto, anzi ne parlavo anche ieri sera, Tiki-Taka, alla fine è anche quasi sano, non è mai sano mettersi le mani addosso ovviamente, ma insomma il fatto che ci sia stato un litigio, una discussione forte, è, insomma, secondo me è prima di tutto un segno che c'è voglia, che c'è partecipazione al progetto, che quindi insomma si crede in quello che si vuole fare. Quando le cose vanno male possono succedere problemi. Sì, no, il tema però è un altro. Non lo vedo come una cosa grave. È il sospetto che da ieri sera hanno milioni di tifosi interisti, e cioè che questa cosa esca adesso, in un certo senso per dare un colpetto, per destabilizzare un ambiente che funzionava. Tra l'altro mi risulta che all'Inter ci sia anche la caccia a chi abbia fatto uscire il racconto, sì, di quello che è avvenuto, come è avvenuto in maniera così circostanziata. Ora, rischia di tornare un po' la tesi del complotto, no? Sì, che mi sembra un po' la bufala, insomma. Io al complotto non ci credo, e credo che l'Inter debba essere felice, serena e tranquilla, perché ha perso una partita, ha perso una battaglia, ma non ha perso una guerra. Sta facendo una stagione fin qui di altissimo profilo, può continuare a farla. Certamente, come dice Mancini, certe volte un punto è meglio che zero, quindi si poteva anche ragionare un pochino di più, con la testa un pochino più fredda, e tenersi un punto che avrebbe fatto certamente comodo. Ma insomma la sostanza è che l'Inter è in testa alla classifica, il campionato è lunghissimo, e secondo me, ripeto, se è avvenuto qualcosa, ammesso che sia avvenuto all'interno dello spogliatoio, è quasi un segno positivo, perché vuol dire che c'è garra, che c'è grinta, che c'è quel fuoco che ti arde dentro, che ti porta poi a incazzarti quando le cose vanno male. Allora, i complottisti, quelli che invece pensano che non sia successo nulla di particolare, anche se davvero si fossero messi le mani addosso, 800',' 0024 0024, tutti convocati qui fino alle 15:30, quindi chiamatevi, prenotatevi, 349 238 6666, invece per scriverci sms o whatsapp, come questo amico che scrive: quando Beckham prese la scarpa in fronte da Ferguson non si seppe niente fino a qualche mese dopo, ma sì, tante ma... cose succedono negli spogliatoi. Ma insomma, cioè, io cito spesso la Lazio romantica del 74 che vinse il campionato con due spogliatoi completamente diversi e due fazioni che si odiavano cordialmente durante la settimana e che poi invece la domenica facevano grandissime cose. Gli spogliatoi delle squadre vincenti spesso non sono stati granitici. Una strada per arrivare alle vittorie è il fatto di andare a cena tutti insieme e volersi tanto bene. Un'altra strada è quella magari di detestarsi cordialmente, profondamente, ma poi di tirar fuori il meglio per la squadra. Insomma, ogni, così come nelle storie d'amore, ci sono le storie d'amore che sono tranquille, fru fru, pucci pucci, cici cici, e ci sono quelle che sono invece un po' più tempestose, ma che magari funzionano addirittura meglio. Quindi io non ci vedo, francamente, non ci vedo niente di pericoloso, niente di grave, e bisognerà ovviamente poi da Empoli e Sassuolo in poi vedere come ripartirà, visto che questo è un campionato lungo con 5 squadre in questo momento che possono tutte sognare lo scudetto. Quindi questo, semmai, ecco, mi spaventerebbe di più se fossi all'Inter il filotto della Juve. Ecco, dove c'è un altro allenatore che ha fatto tremare porte e muri domenica, ne abbiamo parlato. Cioè, già, se scopriamo domenica, che dopo Sassuolo ieri, Juve, oltre a quello che abbiamo saputo, lì qualcuno si è, non dico, messo le mani addosso, sì, ma insomma ha sbattuto un paio di porte, ha fatto volare degli scarpini, insomma non mi sorprenderebbe tanto, e secondo me non c'è niente di male. Conta il risultato, conta l'adrenalina e il carisma e la coesione, come direbbe il nostro amico Andrò Mercu, che uno spogliatoio io riesce a tirar fuori, con le buone o con le cattive, con l'amore o invece con l'attrito. Sì, e all'Inter domenica sera evidentemente si è scelta questa seconda strada. Poi ci chiederemo anche se invece la critica sul fatto che magari manca qualcosa a livello di abitudine all'Inter a stare lì su dopo 5 anni, quindi ci possa essere stata un po' di sofferenza, manca per tutto, la pressione, tranne la Juve manca tutto, però può aver inciso magari, cioè in tanti si sono anche chiesti, inciso, ma com'è possibile che una squadra che è lì, si gioca lo scudetto e prima in classifica, sbagli clamorosamente l'approccio all'ultima, sì, partita prima delle vacanze? Però posso dirti, ah, l'ha detto Mancini, sì, già sì, l'abbiamo sentito già dal, a parte che anche questa cosa che gli allenatori in riscaldamento si accorgono, uno da fuori dice: se ti sei accorto, perché non hai messo mano in qualche modo prima, certo, alla situazione? Certo. No, questo senz'altro, però io ti dico che secondo me il punto qui è che tante volte in questa stagione l'Inter l'approccio non l'ha sbagliato. Adesso l'ha sbagliato e quindi siamo qui a commentare il fatto che l'ha sbagliato. E vabbè, l'ha sbagliato contro la Lazio, che ha vinto con merito, che ha giocato meglio, e punto, fine. Però col Genoa non l'aveva sbagliato, con l'Udinese non l'aveva sbagliato. Cioè, secondo me è un temporale, è un temporale. Quindi se sarà qualcosa di più duraturo e di più pericoloso lo scopriremo solo vivendo, ma insomma dico veramente, secondo me bisogna considerare quello che è stato una sconfitta che tiene l'Inter in testa alla classifica, che avvicina le altre e che certamente può essere un indizio di qualcosa che non va, ma non certamente un giudizio definitivo. Non è che adesso la stagione dell'Inter è diventata improvvisamente negativa o l'Inter non avrà più nessuna possibilità. Sì, non è ancora un inferno, non è ancora un inferno, magari a metà gennaio. 800 24 00 24, chiamate 349 238 6666 per gli sms. C'è anche chi secondo me fa una riflessione su Mancini: bastava che si prendesse la responsabilità di aver sbagliato la formazione e di non aver tirato fuori Felipe Melo e forse tutto sarebbe finito lì. Non lo so, se siete d'accordo torniamo subito. Traffico. Buoni, buoni, state buoni se potete. Tutti convocati. Tutti convocati. Che vince lo scudetto dopo 9 anni. Bellissimo. Bello, beh, dimmi. Lo aspettavo da 8 anni dopo il mondiale, non avevo vinto più niente. Troppo bello, anche questi tifosi meravigliosi. Questo è l'unico scudetto dello zio Bertumi, che oggi compie 52 anni e che salutiamo. Ciao zio. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Come va? Come va? Auguri, Grande Pier. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to zio, happy birthday to you. Qua canto da solo, è una cosa, vabbè, comunque auguri. grazie, grazie. Con questo sfatiamo il mito che nell'82 avesse già 40 anni, perché altrimenti non tornano i conti. L'uomo che vive la vita al contrario, 52 sì. anni sembra più giovane di quando ne aveva 20, colpa anche di quei baffi drammatici. Ma tu, ecco, partiamo adesso, poi parliamo dell'Inter, tutto adesso. Ma ecco, quando ti rivedi con i baffi, è una scelta che ti faresti? Era un no. fioretto, ecco, no. Non era niente. Io avevo mio fratello 4 anni più grande di me, anche lui col baffo. Ah. E io, sai, quando li ho fatti crescere, ma io, Pierre, racconto sempre questa: quando la prima coppa che ho vinto con l'Inter, l'ho vinta per il più giovane in campo, hanno voluto vedere la carta d'identità 3 volte. Hai capito? Perché io sono di dicembre. Un po' come Minala. Esatto. E dopo, quando ho cominciato a ragionare per bene, insomma, dopo il mondiale dell'82, avevo ancora 18 anni, li ho tolti. Certo. Eh beh, insomma, hai fatto bene. Senti un po', quanti ne hai appesi tu al muro dello spogliatoio dell'Inter? Visto che questo oggi il tema, questo inferno, questa polveriera. Ma appesi no, beh, discussioni tante. Raccontavo l'anno scorso, poco tempo fa, che durante, soprattutto nelle partite d'allenamento, oppure ci sono state situazioni anche dopo una partita, mi ricordo a Roma, tra Alto Belli e Passarella, perché doveva calciare il rigore, uno l'ha tirato all'altro. Insomma, un po' di problematiche ci sono sempre state negli spogliatoi, assolutamente. Vi ho sentito in precedenza. Ci sono stati anni dove effettivamente si è fatto bene andando a mangiare sempre ogni giovedì tutti insieme, e altri anni dove magari non eri sicuramente d'amore d'accordo con i tuoi compagni. Però ci sta, insomma, mettere insieme tante teste non è semplice. Cioè, a me, ribadisco, a me sembra che al di là della smentita di Mancini, che potrebbe anche essere di circostanza, anche se fosse, sì, che poi non c'è niente di male, no? Anche il comunicato dell'Inter dice: vengono travisate cose che normalmente su normali logiche, sì, di spogliatoio. Quindi non c'è scritto, non è successo niente. Capisco che abbiamo un desiderio di spettacolarizzazione, per cui, insomma, l'idea che siano volate parole grosse nello spogliatoio può sembrare in certi momenti ad alcuni come chissà che è successo. Ma in realtà chi meglio dello zio? Però, sì. No, posso dire una cosa, tutte e due, nel senso, siccome fino a una settimana fa si parlava tantissimo e bene e giustamente del gruppo dell'Inter, le foto, l'Epic Brozzo, sì. E tutto quanto, io dico che il gruppo si vede nelle difficoltà, quindi questa possiamo chiamarla una leggera difficoltà, perché hai perso una partita e sei sempre in testa, e se già vengono fuori queste cose non è bello. Io penso che adesso, in questi momenti, si vede il gruppo, se c'è gruppo, se tutti c'è stima reciproca, c'è voglia di remare tutti nella stessa direzione, allora questi valori vengono fuori e lo superi facilmente. Se non c'è tutto quello di prima, era di facciata, allora può esserci qualche difficoltà. Ma secondo te Mancio che fa fra una settimana quando li rivede? Perché lui ieri l'ha twittato, perché oramai, insomma, si twitta tutto, e ha detto: guardate, non è successo niente, siamo sempre primi, abbiamo perso solo una partita. Chi lo conosce bene sa che lui queste cose, insomma, gli capitano anche spesso, poi qualche volta vengono fuori. Mi ricordo le immagini della lite con Balotelli a Manchester a spintoni durante un allenamento. Ma secondo te cosa fa quando rivede Jovetic fra una settimana? Cioè, come la chiude? Perché lui è anche quello che ha messo fuori Tevez, ad esempio, sì. L'ha tenuto fuori per 6 mesi. Giovanni, secondo me niente, nel senso che un allenatore intelligente non deve mai portare rancore, passa sopra e ricomincia, assolutamente. Io avevo trapattoni anche con lui, una volta ci ho litigato anch'io, ma dopo un'ora per lui era già finito tutto e ricominciava, deve pensare al gruppo, deve pensare a portare avanti la squadra. Ma fino adesso abbiamo parlato appunto bene di Mancini, non tanto per come faceva giocare la squadra, ma come aveva creato un gruppo, come alternava tutti i giocatori, li aveva fatti sentire tutti i partecipi del progetto. Quindi anche questo che è successo, mi sembra strano all'interno dello spogliatoio, dove stava andando tutto perfettamente, ecco, da parte di Mancini. Quindi penso che tornerà e la gestione continuerà come ha fatto fino adesso, che l'aveva fatta molto bene. 5 squadre praticamente sullo stesso livello, dacci le percentuali. Ma io, la mia favorita fin dall'inizio è l'Inter, perché Mancini, essendo sempre bravo e intelligente, mette sempre le mani avanti, abbiamo una 500, ma l'Inter è una squadra forte, una rosa profonda, perché noi poi non dobbiamo farci sempre condizionare dall'ultima prestazione. Guardiamo cosa ha fatto l'Inter fino adesso. La Juventus è una squadra, anche lei, con tante alternative in ogni posizione del campo, forse gli manca un centrocampista. Quelle che mi piacciono di più sono Napoli e Fiorentina, per come giocano, per come interpretano il calcio con i loro allenatori. La Roma, ho sempre avuto qualche dubbio di rosa, e una squadra di troppi individualisti, e poi quando tutti non remano dalla stessa parte è difficile fare risultato. e il Milan mi sembra leggermente dietro rispetto a questo. Sì, ma sei d'accordo che adesso che l'hanno fatta rientrare, insomma, la Juve è probabilmente quella complessivamente più attrezzata, ma anche a livello di conoscenza di che cosa succede quando si è in testa, perché in fondo le altre che sono in corsa per un motivo o per l'altro è quasi una novità, lo è anche per l'Inter che non era in testa alla classifica dal 2010, lo è certamente per il Napoli, per la Roma, oggi lo diceva anche Sarri in un'intervista, credo al Corriere dello Sport, attenzione perché la Juve è l'unica a sapere come si fa. Penso di sì da questo punto di vista. Io penso che all'inizio la Juventus pensava di vincere le partite perché arrivava da 4 anni consecutivi di vittorie con lo scudetto sul petto e non rispettava l'avversario e non aveva voglia di soffrire. È tornata a soffrire, a rispettare l'avversario, e poi le qualità della squadra, tecniche, caratteriali, e anche l'allenatore, uno degli allenatori più importanti del nostro campionato, insieme a una grande società, sono tornate fuori e hanno ricominciato a vincere. L'Inter ha l'esperienza di Mancini, è vero che il gruppo non ha vinto, ma Mancini ha vinto. E quindi lui può essere importante, però c'è, tante volte per vincere serve anche entusiasmo, voglia di provarci fino alla fine. Mi viene in mente soprattutto il Napoli di Sarri, che ha davanti un centravanti, ragazzi, che forse è il vero fuoriclasse del nostro campionato. Noi abbiamo chiesto provocatoriamente come si fa a perdere lo scudetto quando hai Higuaín così, poi evidentemente ci sono anche gli altri, la Fiorentina però... di Battistuta che ne fece 17 nelle prime 17 lo scudetto non l'ha vinto. Sì, io credo che la dipendenza del Napoli da Higuaín è oggettiva, ma non deve offendere nessuno, nel senso che qualunque squadra del nostro campionato sarebbe dipendente, felicemente, entusiasticamente dipendente da uno come Higuaín. Insomma, i numeri, i gol, ma secondo me non sono soltanto gli aspetti numerici, è anche la bellezza di questi 16 gol che oggi stavamo Non deve commettere gli errori delle ultime, non l'ultima partita di Bergamo, quella di Bologna in casa con la Roma, che è ricaduto un po' negli errori del passato, quando allarga le braccia, quando non aiuta la squadra, quando si impigrisce, perché lui quando vede che è in difficoltà la squadra deve venire fuori, mandare dentro gli altri. È un giocatore unico, perché oltre a far gol fa far gol. Se è questo, Napoli secondo me è una seria candidata, e credo di sì, perché questo è il merito di Sarri, perché è entrato in empatia con lo spogliatoio, con i giocatori, ha migliorato la fase difensiva. Perché io sono anche un estimatore di Rafa Benitez, però da quel punto di vista lui ha fatto crescere tantissimo la squadra Sarri, soprattutto dietro, una squadra che difende in maniera completamente diversa, e gli uomini sono sempre quelli. Anch'io sono un estimatore, però possiamo dire che da questi 5 mesi esce veramente a pezzi Benitez, perché al di là ovviamente di Reina, che non può essere sottovalutato, perché qualche punto l'anno scorso sicuramente il Napoli l'ha perso per il portiere, ma al di là di questo è proprio la differenza fra un allenatore che riesce a creare un certo tipo di clima, che si accorge di una serie di cose tattiche abbastanza banali. Cioè, io veramente il modulo del Napoli l'anno scorso grida vendetta, insomma, come si sia riusciti a recuperare semplicemente giocando a 3-1 come Jorginho mi sembra evidente, ma non lo so veramente, poi non voglio molto di questo Napoli c'era chi già sono con io Benitez. Per giudicare Benitez mi verrebbe da dire, no? Però lo condannano i numeri. Benitez è arrivato quinto praticamente, sì, con questa rosa, sempre con gli stessi errori, sempre con questi due esterni offensivi, col 4-2-3-1, con questi due esterni offensivi che insomma non è che davano una grande mano in fase non possesso, il centrocampo che soffriva e tante volte un approccio alla partita sbagliato, e un Higuaín, quello che diceva lo zio, no? Un Higuaín che lo sappiamo qual è il suo difetto, certe volte se la prende col mondo perché si sente incompreso, perché sa di essere il più forte di tutti, e ogni tanto si deprime quando gli arrivano palloni, è un po' questa penso la sintesi. Sì, no? Poi vediamo, prego zio. No, il Napoli aveva bisogno di un lavoro di campo, di un allenatore vero. Infatti, se non sbaglio, è l'unica squadra che non è andata a fare tournée quest'estate, sono rimasti a Di Maro e hanno lavorato tantissimo. Benitez è un allenatore a livello internazionale, cioè nel senso che ormai conta magari più quello che fai fuori che fai sul campo, non è la gestione della vita quotidiana di questi grandi campioni. E invece Napoli aveva bisogno di questo allenatore, che a me insomma entusiasma parecchio, perché l'ho visto lavorare e lavora veramente molto bene. Sì, grazie zio. Ciao, grazie, auguri. Degli auguri. Come festeggi? Io sono andato da mia mamma e stasera mia moglie mi fa una sorpresa. Alle 18 sono convocato e vediamo cosa succede. Vabbè, vediamo. Non è male, non è male. Poi alle 18 fa pensare anche a teatro. No, fa pensare proprio che parti, preparati, perché 18. Io No, no, partire no, però qualcosa... Qualcosa di clamoroso. Restiamo con la curiosità anche noi. 800-24-0024, ciao. Ciao zio. Ciao. Prima della pausa per la borsa, guarda, ti leggo alcuni messaggi. C'è chi scrive: ma perché se certe cose escono dallo spogliatoio del Milan si dice che la società non è forte, mentre se accade all'Inter va tutto bene, Mancini è protetto dalla stampa. Questo posso dirti, quando ha iniziato a leggere il messaggio mi sembrava l'esatto contrario di quello che si è detto per anni, no? Sì. Che l'Inter aveva una società debole, con troppi spifferi, con troppe voci, mentre il Milan è bravissimo nell'occultare. Ragazzi, poi alla fine sono sempre risultati, sono sempre risultati, è sempre la forza di un gruppo che fa sì se una cosa che potenzialmente può rappresentare un focolaio di problema lo diventa realmente oppure no, oppure addirittura diventa uno stimolo. Insomma, lo zio ce l'ha detto con chiarezza, insomma, la Juve ha imparato in queste 7 partite dai suoi errori, ha imparato dagli schiaffi presi in campo che doveva tornare ad avere un atteggiamento diverso. Se l'Inter farà lo stesso, e io sono abbastanza ottimista su questo, perché non penso che possa essere una sconfitta che fa primavera, e io credo che questa roba se la scorderanno. Poi non è un campionato facile, io continuo a pensare che il Napoli sia la squadra più bella che c'è, di quelle che si sono viste assieme alla Fiorentina, ma secondo me il mix di forza e bellezza secondo me la rende favorita. E poi chiaramente la Juve molto dipende dalla Juve, perché se la Juve fa quello che ha fatto gli ultimi 4 anni non c'è per nessuno. Poi Mancini è incapace, vogliamo finirla con Mancini non vale nulla, o ancora un altro che posso scrive credere, smettetela di dargli del vincente perché si veste, pettina bene, cioè si presenta bene. No, guarda, io su Mancini l'anno scorso sono stato molto critico e ricordavo però il spesso... dibattito è aperto, se la pensate così, certo, noi accettiamo qualunque opinione. Io impazzivo per Mancini da giocatore, confesso questa mia proprio perversione, cioè il mio mito erotico calcistico da calciatore, quando avevo 18 anni era quello che mi piaceva più di tutti. Esteticamente mi piaceva, so che sto bestemmiando, poi magari Baggio è stato più forte, sicuramente è stato più forte nella storia del calcio italiano, però a livello di gusto proprio estetico Mancini mi piaceva più di Baggio, più di Zola, più di tutti, quindi ho un'adorazione da questo punto di vista. Credo che abbia fatto delle cose da allenatore oggettive, non ho il mito di Mancini allenatore. Secondo me l'anno scorso ha fatto anche un po' di casino, nel senso che ha faticato a trovare la quadra all'Inter, quest'anno la sta trovando e non può essere una partita sbagliata, che secondo me è la seconda della partita sbagliata sul 17 della stagione dopo quella con la Fiorentina, a cambiare il giudizio. Sì, dove ci ha messo anche il suo, esattamente come con la Fiorentina. Certo. Allora, 800-24-0024, ci sono già Paolo da Bergamo e Ubaldo dalla provincia di Lucca. C'è anche un amico che scrive su WhatsApp: mi piacerebbe parlare con voi dato che ero a San Siro domenica, amico. Ci scrivono anche di Ibrahimovic e Onyebu. Ecco, sì, ma lì è clamoroso, e in quel caso si è saputo in maniera postuma, anni dopo. Però si sa, insomma. Però insomma, è venuto fuori anche quello. Torniamo subito dopo la borsa. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Altro grande match che ci viene segnalato: Ibra e Zebinà alla Juve, occhio pesto di Zebinà, Pepo da Sassuolo. Se avete altri match che hanno animato il nostro calcio, i nostri spogliatoi, 800-24-0024. Sì. Volevo dirti che c'è uno che mi scrive: grande Pardo, splendido democristiano, cerchio bottaio, due piedista in una scarpa. Il teorico del ma anche teologo del prima tu. Io il prima tu non so che voglia dire. Sul ma anche c'è la limitazione di Veltroni fatta da Guzzanti. Ma anche quasi tante volte, però è ma anche, ragazzi, la vita. Che vi devo dire? È ma anche. Se vuoi avere tutte queste certezze, vi faccio i complimenti. Se vuoi sapere dirmi chi vincerà il campionato al 100%, vi faccio i complimenti. Anzi, direi che troppo mi sono sbilanciato con quella previsione sul Napoli, sì, perché l'ho visto giocare fermi un calcio sul Napoli da 20 settembre più o meno. Ho visto giocare un calcio pazzesco, poi questo potrebbe non bastare, però insomma, quindi allora, però, vabbè, insomma. Devo confessare che anch'io ieri sera ho appeso un mio compagno di squadra negli spogliatoi dopo una partita persa. Capita, Fabio. Scritto, quindi magari domani. Ok, ma a me interessava sapere chi aveva vinto tra Ibra e Onyebu, spero il secondo, cioè pure i bookmakers, ecco. Allora, Paolo da Bergamo. Paolo. Sì, ciao, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ascolta, niente, volevo dire, io sinceramente Mancini non ci vedo proprio un altro vincente. Però devo dire che quest'anno mi sta piacevolmente sorprendendo. Io non pensavo che l'Inter sarebbe partita così bene. Per me questo fosse uno dei migliori anni di Mancini. per come me lo ricordo io. Detto questo, penso che comunque vedo ancora favorite la Roma, la Juve rispetto alle altre, sopra il fatto che queste due squadre qua hanno avuto un brutto momento, un momento difficile, ma che tutto sommato alla fine stanno ancora a 4 punti, 3 dalla prima. E questo mi fa pensare che la volta che riescono a inquadrare, diciamo, il giro, poi sarà dura per le altre, anche perché prima o poi un calo ce l'hanno tutti, e diciamo che le altre tre, bene o male, hanno sempre giocato con una certa continuità, ma sarà dura per loro arrivare fino alla fine in quella maniera qua. Sì, anche questa può essere una chiave di lettura di quello che succederà in questo campionato. Oggi si sprecano le statistiche, 5 squadre in 4 punti, così era successo solo una volta, o nell'epoca dei 3 punti, insomma, c'era qualcosa di simile nel 99-2000, ma ad esempio con l'inserimento della Lazio, del Parma, per carità, la Lazio poi vinse lo scudetto quell'anno, sì, quest'anno il periodo delle 7 sorelle, no? Ecco, quest'anno la particolarità è che ci sono davvero tutte le più forti là sopra, manca forse il Milan, sì, che è leggermente dietro, e questo rende tutto ancora più difficile da leggere. Ubaldo dalla provincia di Lucca. Sì, buonasera. Eccoci. Allora, ma se per voi sono cose normali, no? Quelle che sono successe nella storia, sì, dell'Inter, sì, perché avete perso mezz'ora per parlare dell'Inter, cioè per dire sempre le solite cose dell'Inter? Di cosa dovevamo parlare? Ma perché non avete parlato del titolo d'apertura di Marca, che parla della truffa? Ma ne parleremo, sì, ne parleremo, ne parleremo. Ma non lo so, ma cioè, voi, cioè, l'unica cosa, io vi ascolto sempre. Ci proponga argomenti, ci dica. Sì, tutti i giorni, se ci avete da parlare male dell'Inter, l'unica cosa che fate. Se avete da dire una cosa positiva sull'Inter, mai una volta. Mai una volta che io sento dire, ma forse niente, che chi ha giocato a pallone sa benissimo che quello che ha fatto Felipe Melo domenica sera è una cosa che qualsiasi persona che ha giocato a pallone sa che dopo veniva offeso e veniva detto di tutti i colori, perché chi ha giocato lo sa che funziona così. Sì. Chi non ha giocato, chi non ha messo dentro il spogliatoio diciamo, dagli amatori fino alla Serie A nazionale, lo sa che sono cose che sono normalissime, va bene? Che è quello che ho detto io. E quindi? Sì, ma allora perché e quindi, voi Ubaldo? Avete messo mezz'ora di tempo per dire... Ma perché si parla delle cose che sono sulle prime pagine, insomma, dei giornali, mediamente. Che devo dire? E ci mancava che Fabio invitasse Mughini... E poi sì, per parlare dell'elite di Mancini. Vabbè, magari la prossima volta invitiamo Mughini per parlare di Felipe Melo. A proposito, Felipe Melo ha preso 3 giornate di squalifica per il colpo da Kung Fu e Dzeko 2 per la prova di inglese con Gervasoni. Gervasoni promosso, sì, quindi fuck off all'arbitro. Fuck yeah. Vale, go on, game back. Esatto, vale 2 giornate di squalifica. Parliamo un po' del campionato, dell'equilibrio di, insomma, questa classifica con 5 squadre in 4 punti, dei 36 dell'Inter, ai 32 della Roma, di tutti i precedenti, compreso quello del 2002. È una settimana che gira questo precedente, guardando il distacco tra Juve e Inter alla 16esima. Il campionato del 2002 è quello del 5 maggio, sì, è finito in quella maniera lì. Questo però è un campionato bellissimo, e allora, insomma, è un po' riassunto anche dalle battute dei protagonisti. Faccio fatica a 25 partite dalla fine a considerarla qualcosa in più di una partita importante. Io faccio fatica, scusatemi, è come quando sento dire una squadra prende 3 o 4 punti, campionato finito, la domenica dopo pareggia e sento di campionato riaperto. Io ci ho riso per 10 anni su questa storia. Il discorso scudetto è ancora aperto per tutte le squadre che stanno inseguendo l'Inter, anche se l'Inter, come ho detto ieri, in questo momento è la favorita numero uno, perché ha dei numeri importanti e impressionanti. Ma io credo che sarà una lotta fino in fondo, tutte squadre forti, Juventus, Napoli, Fiorentina, Roma. Ma cioè te manco dici metti? Oppure lo dai per scontato? No, noi siamo i primi in questo momento. No, perché va bene tutto, va bene la scaramanzia, ma addirittura non mettersi da testa. No, la messa a fare. No, lì, per dire. Insomma, questo è il gioco a nascondersi di tutti. Buongiorno, sono Stefano, da tifoso viola ma appassionato di calcio. Ritengo che Mancini si porta dietro una scia di antipatia che deriva dal fatto che gli hanno sempre comprato tutti i giocatori che ha voluto, facendo spendere vagonate di soldi e vincendo pochissimo in proporzione. Questo è insomma, Mancini è bravo a spendere, a far spendere, sì. Su questo non ci sono dubbi, è anche una sua dote, esatto, una sua qualità, un vizio. Ha fatto delle, sai, su Mancini il giudizio è abbastanza sospeso, perché è vero che l'Italia ha vinto degli scudetti un po' più semplici rispetto agli altri, no? Perché erano gli anni in cui alcune rivali storiche erano fuori gioco, quindi questo secondo me in qualche modo gli ha tolto qualcosina, però comunque li ha portati a casa per gli scudetti. Ha vinto uno scudetto con Manchester City negli ultimi minuti, con la famosa partita ribaltata negli ultimi istanti, che comunque mancava da tantissimi anni. Mi sembra un allenatore buono, molto buono, poi come tutti ha fatto degli errori, poi probabilmente ci saranno allenatori più rivoluzionari nella storia del calcio, sicuramente Guardiola, da un certo punto di vista anche Mourinho, però insomma mi sembra che se discutiamo Mancini e diciamo che non è bravo, insomma secondo me ci sbagliamo, ecco. Zamparini d'Agosto dice: il Mancio è un allenatore sopravvalutato, anche se è mio amico. Vabbè, insomma, se noi adesso chiediamo a tutti gli anti Mancini di scrivere, l'impressione che possiamo star qui fino a questa sera. Potevate parlare di Blatter e Platini, ma preferite il gossip. Ne parliamo dopo. Blatter e Platini. Sentite le telefonate nerazzurre, si conferma l'equazione interista uguale Piangina. Riccardo, allora, Angelo dall'Aquila è caduto, Gino dalla provincia di Modena. Buongiorno. Buongiorno, buon Gino. Natale a tutti i radioascoltatori. Buongiorno anche a te, buon Natale anche a te. Prego. Dunque, io sono milanista. Sì. Però volevo dire, io ho visto quest'anno, ho visto il Verdi dal derby, sono andato a vedere l'Inter qua a Modena col Cagliari, ho visto il Milan, ho visto il Napoli. Sì. Dico, come Napoli, come qualità di gioco è altamente superiore a tutte. La Juve però è la più forte. Il Milan, se gli fosse girata bene negli episodi, avrebbe gli stessi punti dell'Inter, perché l'Inter non gioca meglio né del Milan, ma gioca pressoché uguale. Gli è andato solo meglio in certi episodi, che nel calcio gli episodi contano parecchio. Mi sembra ci sia un po' più di differenza tra Inter e Milan soltanto degli episodi, eh? Beh, in prospettiva dico che sarà più forte il Milan, perché il Milan ha dei giovani molto interessanti con qualche innesto. L'Inter è una squadra che è fatta senza programmazione per vincere sull'istante, è una squadra mediocre, ve lo dico, e poi dopo vedremo alla fine chi ha ragione. C'è anche un altro amico che ha scritto: scommetto che a fine anno il Milan sarà davanti all'Inter, non lo so. Intanto saluto Sandro Sabatini, ciao Sandro. Ciao, buon pomeriggio, che critici severi. Che sì, ma guarda, di tutto, di più, come stai d'ora che massacrano il signor Mancini, Sandro, come sta? Tutto bene, ciao Pierluigi, ciao. Come va? Bene, tu? Bene, bene, tutto a posto, però non dobbiamo parlare degli affari nostri, perché la gente vuol sapere invece dell'Inter e di Mancini, sì, e mi sembra una telefonata, se non avessi il piumino mi sembrerebbe di essere a Ferragosto, quando tutti ce l'avevano con Mancini e non andava bene nulla. Siamo un po' esagerati, sono un po' esagerati, perché guarda che poi l'Inter è in testa, l'Inter ha perso contro la Lazio per una serie di perché comunque erano già in vacanza, e per una serie di follie non collettive ma riconducibili secondo me abbastanza a Felipe Melo, però non credo che sia così disastrosa anche del Mancio, Sandro, anche del Mancio, perché io credo che legittimamente male, i tifosi dell'Inter male, si stanno chiedendo ancora, perché tu hai due giocatori che sono assolutamente di condizione superiore in questo momento rispetto agli altri e tu li tieni fuori, che sono gli Aic e Brozovic. Cioè, questa è una domanda legittima. Questa è una critica legittima. Poi il Mancio è un po' naif, lo devi prendere così com'è, 10 volte azzecca, un paio di volte sbaglia. La forza del Mancio fino ad oggi è stata in questa continua variazione degli interpreti, cioè è il punto di forza di questa squadra ad oggi, perché sì, questa squadra è in testa alla classifica. Noi siamo bravi a modulare, no? Che se uno vince con la squadra fissa dice bravo perché ha creato il gruppo solido, cioè, gli 11 titolari. Se uno vince cambiano tutti, bravo perché è riuscito a motivare tutti. Se uno perde cambiano tutti, è scemo perché ha cambiato. È così, Noi siamo specializzati in questo. Mi sembra che comunque moderiamo anche le esasperazioni dei tifosi. Però una cosa è vero, questo va detto con tutta la stima che si può riservare a Roberto Mancini, anche per come l'ha costruita questa squadra, le esclusioni di Ljajic e Brozovic non le ha capite nessuno. A maggior ragione dopo il fatto che Mancini aveva inserito Brozovic tra i 5 titolari annunciati alla vigilia. Quindi sinceramente è il centrocampista più in forma, perché sia stato fuori proprio lui non l'ha capito nessuno. Però magari ci sono cose che noi non sappiamo. Una cosa è sicura, come l'Inter è stata massacrata troppo in estate, esaltata troppo nell'ultimo mese, e adesso avrà qualcosa di troppo in queste due settimane abbondanti che mancano alla ripresa del campionato. È la legge di chi segue il calcio e di chi parla di calcio, però la verità sta nel mezzo, non vorrei ammosciare la discussione nell'umore di quelli che telefonano. La verità è che l'Inter se la gioca un posto per la Champions League, se non sarà scudetto sarà comunque il terzo posto, certo. Ma tenete conto che questa è l'Inter molto più solida di quel che si dice sullo slancio dell'ultima partita. Sì, ed è anche perfettibile sul mercato. Adesso però abbiamo il traffico, torniamo un minuto, 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati. Beh, intanto vi saluto tutti, saluto il mister. Ma no, è un anno di. Vado in giro, a vedere gli allenatori, vado a vedere le partite. Penso che sia giusto così in questo momento. Pippo, avrai notato che dopo, insomma, la tua partenza il Milan ha risolto magicamente tutti i problemi, no? È stabilmente in testa alla classifica. No, voi sapete che di calcio non posso parlare, per cui sono venuto a salutarvi e poi, insomma, tra qualche mese parleremo anche di calcio, ok? Tra qualche mese. Che domanda da lecchino che ho fatto, che domanda, sì, da lecchino. Anche tu devi sapere, però era un modo sotto per contratto, provare, quindi lo so, non può parlare. È un tentativo di farsi dire qualcosa, che dobbiamo fare, è il nostro come lavoro. Non parla, non parla Mazzarri, che è muto da ormai da un anno, esatto, perché fu esonerato a metà novembre. E senti un po', scrive un amico via WhatsApp, se vi interessa, Castelfranco Veneto, settimana scorsa c'era Guidolina a cena con Gagliani, un vostro assiduo ascoltatore, ecco. Si firma, Sandro, tu ci credi che Mihajlovic è al riparo perché ha vinto con la Samp in Coppa Italia, ha vinto col Frosinone in campionato? Io credo di sì, ma è chiaro che il calcio poi è dettato dai risultati, anche le strategie più a lungo termine vengono, il bello del calcio è che qualsiasi strategia anche a lungo termine viene rimessa in discussione dopo ogni partita. Mi complimento con Pierluigi Pardo perché è stato calzante, che ha rivolto ieri a Pippo Inzaghi e lo ha messo alle corde. No, non l'ha mollato, non c'erano margini, dai. Non l'ha mollato, so, finché non c'erano margini, ho cercato così, insomma, leccando un po'. Io dico, al di là però è vera, quella cosa è vera, eh. A me Inzaghi, l'ho detto mille volte l'anno scorso, ma ha deluso dalla stagione scorsa, nel senso che ho visto il Milan non far bene e ho visto poi, al di là dei risultati tecnici, sportivi, troppe volte il Milan di Inzaghi fare degli errori. Mi ricordo un Torino-Milan finito praticamente senza attaccanti, errori proprio filosofici per quello che il brand Milan vuole rappresentare, no? Il famoso padrone del campo, padrone del gioco. Io ho visto delle cose fatte da Inzaghi lo scorso anno veramente ardite dal punto di vista difensivo, e quindi io credo che non abbia fatto bene, ma lo sa secondo me anche lui. Detto questo, non è che adesso le cose vadano molto meglio, questo è oggettivo e gli va riconosciuto. È vero, però se tu devi dire che cosa sta seminando Mihajlovic, secondo me, detto con rispetto anche per Inzaghi, sta seminando qualcosa di più, ecco, questo va detto, anche se i punti sono più o meno gli stessi dell'anno scorso, però nel Milan si intravede, con qualche magari correttivo, con qualche ipotesi nuova sul mercato, con qualcosina, si intravede qualcosa che invece secondo me l'anno scorso non si intravedeva. Era la squadra rispondeva esattamente alle caratteristiche di Inzaghi giocatore, sul filo del fuorigioco, scattava, se arrivava il pallone d'opportunismo segnava e vinceva, e questo era il Milan anche l'anno scorso. Appena sono arrivati non sono più arrivati le possibilità di avere dei guizzi, ma la squadra si è adagiata anche una mentalità, come raccontavi tu, per cui arriva l'Empoli a San Siro e sembra il Real Madrid, e il Milan è scomparso. Secondo me con Sinisa Mihajlovic, anche per le caratteristiche che era di Mihajlovic da calciatore, sarà comunque un Milan sempre posso dire incazzoso, orgoglioso, puoi dire. Sì, cosa che a tratti, Sandro, però è mancata, in una fase di questo inizio di stagione c'è stato anche un momento in cui il Milan è sembrato remissivo. Quella a Frosinone è la prima vittoria di rimonta, cioè fin qui il Milan, quando andava sotto o perdeva o al massimo pareggiava, che non è un dato da squadra di carattere. No, non è un dato da squadra di carattere, ma è evidente che anche Mihajlovic, parliamoci chiaro, non è che sta raccogliendo tutti gli entusiasmi che aveva suscitato quest'estate. Però, ripeto, sarà che sono influenzato, come tutti siamo influenzati dall'ultima partita, dall'ultimo turno di campionato. Secondo me nel Milan si intravedono i margini di miglioramento. Ecco, questo va detto. E poi è chiaro che Mihajlovic si attacca anche a brutto muso, perché poi si fa bene a tutti a fargli spiritosi, no? Sulle domande. Pensate, Pierluigi Parra non lo sa, voi non lo sapete, domenica mi sono trovato Mihajlovic, che mi ha dato dopo partita, gli ho chiesto praticamente un argomento a piacere, e gli ho detto: ma perché non sorridi? Perché che hai appena vinto, che me ne frega di stare qui, vorrei andare a casa. Ecco, insomma, anch'io volevo andare a casa, però questo per dire che comunque le interviste nascono così. E ecco, però una cosa è sicura, cioè il carattere di Mihajlovic, che pure non ha rispettato quello che era riuscito a attendersi da lui fino all'estate, secondo me può dare al Milan ancora qualcosa. E quando Mihajlovic dice: ho 28 punti, l'Inter che è al comando ne ha 36, effettivamente, come si diceva una volta, la matematica, l'aritmetica non può che dargli ragione sul fatto di avere ancora ampi margini e ampi orizzonti. Sì, posto che in mezzo tra quei 36 e quei 28 punti passa tutto il campionato, perché ci sono anche tutte le altre. Scrive un amico via WhatsApp: dopo la sosta torneranno Balotelli, Menez e soprattutto Boateng, la squadra sarà di un altro livello. Io non so se Boateng sia l'uomo che può far fare salto di qualità al Milan, non so nemmeno se sia l'idea con cui viene rifirmato per i prossimi sei mesi, se qualcuno ha capito qual è la logica. Ma no, la logica, che mi sembra anche molto familiare, Boateng, al di là poi di quello che pensa la gente, ha dei problemi alle ginocchia fisici abbastanza seri, speriamo per lui che si sia rimesso. Balotelli è il punto interrogativo del 2015, anno nuovo, vita nuova, questa è l'unica speranza che possono avere i tifosi, direi non solo del Milan, per Balotelli. Menez, attenzione, perché Menez è l'emblema del Milan di Inzaghi l'anno scorso, giocatore di talento, determinante, eccetera, ma tutte le volte che era il migliore in campo Menez, sparivano tutti gli altri, cioè vuol dire che tutti gli altri non c'erano. E poi voglio vedere, era quello che ammesso che il modulo finale del Milan sia il 4-4-2, ammesso, voglio anche capire dove gioca Menez, perché già stiamo assistendo al balletto di Niang tra la fascia e il ruolo da seconda punta, non si capisce chi vuole cosa e chi chiede di far giocare o meno Luis Adriano. Con Menez più o meno ripartiamo dallo stesso punto. Grazie Sandro. Grazie, ciao. A voi, un abbraccio. Ciao, ciao. Grazie Sandro Sabatini. Allora, abbiamo tre minuti. Pierpaolo da Rimini. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Grazie a te. Senta, io volevo intervenire sulla lotta Scudetto, in particolare Inter e Juventus, e mi volevo ricollegare qualche giorno fa, quando lì in trasmissione c'era Beppe Bergomi. Sì. Il quale affermava la Juventus dovrebbe prendere esempio dall'Inter, perché l'Inter quest'anno una difesa molto solida. Allora, io credo, è quello che volevo chiedere anche a voi, che ci sia una differenza abissale fra i valori della Juventus e dell'Inter. L'Inter non esprime un calcio, ma si difende e vive di episodi. La Juve in crescita è nettamente superiore sul piano del gioco, ha ritrovato degli attaccanti importanti, e io scommetto che anche quest'anno chiuderemo con 15 punti di vantaggio. Tu immagino sei juventino, Pierpaolo, no? Molto juventino, ma obiettivo. La previsione sui 15 punti, io sono arrivato per quella. È chiaramente ottimistica, però insomma è chiaro che queste 7 vittorie consecutive non le ha fatte una squadra, cioè l'ha fatta una squadra che negli ultimi anni ha sempre dominato, e quindi fanno un po' più impressione, secondo me, è oggettivo, fanno più impressione perché ti danno l'idea che insomma sia finita la ricreazione. E se è finita la ricreazione e la Juve è quella degli ultimi 4 anni, insomma è ovvio che è aritmeticamente complicato per tutti, quindi è un'ipotesi. I 15 punti no, a me sembra tutto più equilibrato, per mi sembra con 15 come... punti di vantaggio dovrebbe vincere 22 delle prossime 21 partite, sì, ma adesso a parte i calcoli, diciamo così, all'Antonio Conte da 102 punti per il gusto dei record, secondo me qui stiamo facendo una cosa diversa rispetto al passato, cioè stiamo vivendo un campionato dove i valori tecnici sono oggettivamente più equilibrati, cioè il Napoli di oggi, l'Inter di oggi, ma la stessa Roma se si dà una inquadrata, e la Fiorentina sono comunque molto molto più vicine, ammesso che siano dietro, sono molto più vicine alla Juve di quanto era negli anni scorsi. Quindi io non credo che assisteremo a una fuga, penso che assisteremo a una volata. Sì, certo, la Juve ha un'esperienza e un'abitudine a questo tipo di adrenalina che le altre non hanno. Allora, io chiedo scusa a Luca da Livorno, lo facciamo subito dopo il GR delle 15. C'è un amico che scrive: pensate cosa sarebbe successo se Mancini per 3 partite filate avesse avuto torti arbitrali, parlando del Milan e dei rigori di Bonaventura. Beh, qualcosa abbiamo visto, anche senza i torti, insomma, il tema arbitrale Mancini l'ha sollevato in non poco in questa prima parte del campionato. Allora, 800 24 00 24, adesso c'è il GR, poi torniamo, parliamo anche di Blatter e Platini. Ripartiamo da Luca da Livorno, adesso il GR. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Anche questa settimana, la settimana di Natale, grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. La prima donna regista a vincere l'Oscar, Kathryn Bigelow. Il portiere più pazzo del mondo, René Higuita. Un grande poeta della musica che non va dimenticato, Sergio Endrigo. Un tuffo nel brivido proprio come avrebbe voluto lei, Agatha Christie. E poi 3 puntate in 1 per festeggiare assieme il giorno di Natale. Tutti i giorni alle 15.30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Buone feste a tutti. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Audiogrammi speciale Natale. I grandi classici del cinema e della letteratura raccontati alla radio. Il 24 e il 31 dicembre, tornate bambini. Vivrete le emozioni di 2 grandi storie, come mai le avete ascoltate. Audiogrammi speciale Natale. Vi aspettiamo il 24 e il 31 dicembre alle 22 su Radio 24. Audiogrammi, in radio come al cinema. Tutti convocati. Allora, l'Inter ha vinto almeno 3 partite 1-0 contro provinciali con pali e arbitri. Il Milan con Carpi e Verona, mettete un arbitro più favorevole e sono 4 punti in più. I giudizi purtroppo li fa la classifica e basta. Gianluca da Lucca, quindi così ti abbiamo letto e sei tranquillo. Luca da Livorno, che ci aspetta da tempo immemore. Luca, buongiorno a tutti. Eccoci qui, un premio alla fedeltà all'amico, nel vero senso della parola. Grazie. All'amico juventino ricordo che dopo 7 vittorie è sempre 10. Sì. Non ci darà 15 punti, questo è importante. Poi al nostro mister, che secondo me è un in gamba, sbaglia. Ma il tuo sbaglia. Mister è Allegri, no? Sei di Livorno, no. Il tuo mister Allegri è Allegri. Allegri è un amico, e invece Mancini è il nostro amico. Ma senti, ma quante volte l'hai visto stracciarsi le vesti Allegri, visto che è un tuo amico? No, non se ne straccia le vesti. No. Vuol dire che l'ha incassato, vuol dire che ce ne ha tanta e ne sta trasmettendo tanta la vita. Era molto poi, livornese quel gesto, poi. Era molto livornese. Sì, io penso lui sia veramente il più bravo di tutti, perché ha una calma, perde, vince, non cambia, è un grande, il carattere livornese lo aiuta effettivamente, volevo dire questo. Mancini è bravo. Mancini, sì. Io spero di non vedere mai più Melo giocare nell'Inter, perché lui non ha perso una partita perdendo la testa ci perde 30 secondi, lui ha scientemente fatto perdere la partita all'Inter. Al 23esimo lì Mancini ha peccato, doveva uscire, quel passaggio dal vertice sinistro dell'area, la palla morbida in mezzo al campo, per lanciare il secondo contropiede di fila. Poi dopo, vabbè, il placcaggio in area, ma il placcaggio in attacco 2 minuti prima del placcaggio causato, sì, il calcio di rigore. Non ha avuto, Luca, adesso non rifarci, perché hai aspettato un quarto d'ora, ma non rifarci la moviola la storia, di domenica sera. Guarda, Melo ha giocato male, però non possiamo, non possiamo dimenticare che per 1.5-2 mesi siamo andati avanti a dire che Melo era il leader della nuova Inter. Meraviglioso. nell'ultima ora e mezzo nei mercati internazionali. La quota della Lazio è scesa, la quota dell'Inter è aumentata del 50%. Mm. Io penso che a pensare male alle volte si fa bene. Addirittura. Vabbè, sì. C'è anche chi dice... Sì, sì, no, perché se può fare qualunque pensiero, c'è anche chi scrive: il campionato è identico a quello degli anni scorsi, tutti fanno ciapa, no, l'unica anomalia sono che la Juve ha 7-8 punti in meno del solito. C'è anche chi scrive: Felipe Melo gioca ancora per la Juve, che questa è, può essere anche una teoria. Andiamo in Inghilterra. Verso Ozil, Ozil alza la testa, vuole allargare, c'è Walcott che rientra sul destro, prova! Theo Walcott! Theo Walcott, la sbloccata d'interno destro! Ozil può ricevere, in Veronica, palla sul sinistro per Giroud, palla sul sinistro anche per Giroud, che cresce Giroud! Olivier Giroud! Yaya Touré ancora per Sagna, di nuovo Yaya Touré, apre l'interno sinistro Yaya Touré, un gol fantastico di Yaya Touré, interno sinistro, preciso, imparabile, un colpo quasi coperto. Intanto ieri l'Arsenal ha battuto 2-1 al Manchester City. Saluto Paolo Ciarravano da Fox. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Come va il signor Ciarravano? Come stai? Ciao Pierre, bene, bene, molto bene. Bella partita tornato. Ieri, eh? Bella partita. Te la sei goduta. Me la sono goduta, grande atmosfera, stadio esaurito, neanche a dirlo. C'è sempre un po' di invidia quando andiamo in quei campi. Sì, sì, sì. Ho fatto un pensiero questa mattina. È l'anno nero di Mourinho. Nell'anno nero di Mourinho ci sta anche che l'Arsenal vinca il titolo. Sì, è l'anno nero di Mourinho, dici bene. Cioè, tu pensa se Wenger vince il titolo. Tutti i suoi avversari, ecco. Esatto. È lì che volevi andare a parare. Esatto. Pensa se Wenger vince il titolo. Ai suoi antagonisti. Beh, l'unico sì. Col quale non ha, cioè, Pellegrini si è messo meglio, no? Rispetto agli altri, direi. Cioè, i grandi scazzi sono stati con Ranieri, con Wenger. Sì, quindi... Assolutamente. Beh, con Wenger, con Wenger siamo arrivati a livelli altissimi. Sì, sì. Lui l'ha definito specialista in fallimenti. Mourinho ha definito così Wenger. Che lo specialista in fallimenti vinca il titolo nell'anno peggiore, forse, del rapporto tra Mourinho e il Chelsea, insomma, sarebbe da questo punto di vista il colmo dei colmi, ma in questo momento sembra un'ipotesi anche percorribile. Ecco, dacci una speranza da questo punto di vista, nel senso che mi sembra una squadra che sta recuperando attributi. Cioè, il problema dell'Arsenal lo sappiamo, l'Arsenal da sempre, insomma, una squadra che valorizza i giovani, che gioca un calcio estetico, che alla fine però alla fine diventa noioso pure quello, no? Nel senso che poi alla fine qualcosa vorresti vincere. Mi sembra che quest'anno, che pure è iniziato con qualche difficoltà, moltissime in Europa, i primi disastri con l'Olympiacos, però insomma proprio le cose si stiano un po' risistemando. Cioè, vedo l'Arsenal cominciare a vincere delle partite da squadra di personalità. È un'illusione? Esatto. No, non è un'illusione, è quello che ci dice la partita di ieri, secondo me. L'Arsenal è sempre stata una squadra cicala, squadra che insomma guarda più all'estetica che non alla pratica. Wenger lo è sempre stato, anche dal punto di vista delle sue scelte sul mercato. È uno che andava a comprare la bottiglia di champagne, ma non aveva il pane per mangiare. È sempre stato così, è quello che gli viene rimproverato. In questo momento l'Arsenal, anche nei giocatori di maggiore estro, penso per esempio ad Ozil, ha una cattiveria che non gli si vedeva da tanto tempo. Io ieri ho visto Ozil con la bava alla bocca andare a riconquistare palloni da solo contro due avversari, e chi l'aveva mai visto Ozil fare queste cose? Io l'ho sempre visto fare gli assist, è arrivato a 15, è un giocatore assolutamente delizioso in questo, ma una cattiveria del genere non gliel'avevo mai vista. Il vero dubbio, secondo me, è il momento degli infortuni dell'Arsenal. L'Arsenal è senza la sua coppia centrale di centrocampo titolare. Coquelin e Cazorla torneranno rispettivamente a febbraio e a marzo. Ora stanno giocando con una coppia arrangiata, con Ramsey vicino a Flamini. Insomma, dovessero giocare tutte le partite, prima o poi scoppieranno con questa situazione, giocando in questo modo. Se regge, è un Arsenal che può arrivare può arrivare in fondo. Poi attenzione, c'è il mercato di gennaio, se Wenger dovesse fare un paio di interventi, secondo me diventerebbe una squadra perfetta. Sì, poi noi continuiamo a considerare Leicester una meravigliosa anomalia, io non so se sei disposto a scommettere anche solo un pound che possa arrivare in fondo, io no. Piuttosto sulla rimonta dello United, non lo so, poi ci chiedono da casa e poi risponderemo anche a questa domanda: dove va Mourinho, se davvero fra 10 giorni siamo qui a parlare di Mourinho sulla panchina del Manchester. Però il Leicester insomma è lì, ha preso in prestito la Premier, il che significa che non abbiamo ancora visto i valori reali. Non so se sarà una leppe, che poi quando il gruppo ha preso velocità si fa da parte e fa fare il record del mondo agli altri, questo non lo so. Però credo che possa essere una squadra che magari rinforzata a gennaio possa andare in Europa. Non credo possa vincere il titolo, anche se sarebbe una storia meravigliosa, veramente meravigliosa da raccontare e da vivere. Ma credo che comunque possa rimanere nel lotto delle squadre che andranno in Europa. E attenzione, già una qualificazione in Europa League per Ranieri sarebbe una cosa straordinaria, per il Leicester sarebbe un'impresa straordinaria. Per quanto riguarda Mourinho e Manchester United, io credo che se Ferguson, che è quello al quale è stato chiesto un parere molto vincolante per il Manchester United, sì, dovesse decidere che è suonata l'ora di Van Gaal, conoscendo quello che ha anche detto spesso in modo esplicito anche nei suoi libri, anche nella sua autobiografia, Ferguson, il nome che farebbe sarebbe Mourinho, e lì forse lo United dovrebbe provare a giocare d'anticipo sul Paris Saint-Germain, che mi dicono sia già iniziato quantomeno a muovere. È vero invece che il Chelsea sta soffiando Guardiola al City? Sono sicuro che ci proverà. Sono sicuro che ci proverà perché è una vecchia un vecchio innamoramento di Abramovic, Guardiola, che però non è mai riuscito ad andare a dama da questo punto di vista. So pure però, anche perché l'hanno scritto dei colleghi spagnoli, in particolare il Mundo Deportivo ha dato per fatto l'accordo, un preaccordo con il City già da un paio di settimane, so che insomma il canale preferenziale tra De Gristein e Guardiola è imprescindibile e dà un vantaggio al City da questo punto di vista. Ma che Abramovic possa provare per il prossimo anno, dopo il traghettatore Hiddink, a fare un'offerta folle delle sue, dell'Abramovic prima maniera, questo secondo me ci può stare con. È assolutamente qualcosa di incredibile. Grazie Paolo. Ciao. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao, ciao. Grazie Paolo Ciarravano. Comincia a essere più 9 dalla quinta e anche dalla quarta il Leicester. Comincia a essere insomma una classifica anche proprio dal punto di vista aritmetico molto interessante. Ovviamente è lunga, ma non fa, era ultimo di questi tempi. Esatto. E dopo Natale gioca col Manchester City. Sì. Quindi se hanno voglia di restare là sopra, abbiamo da divertirci. 800 24 0024 Alessandro da Modena. Alessandro, innanzitutto buongiorno a te. Vi faccio i complimenti per la trasmissione e gli auguri di buone feste. Grazie. Avete colto in contropiede, volevo parlare di Mancini, poi avete tirato fuori la Premier. No, ma vai puoi parlare di quello che vuoi. No, vai. Io volevo solo dire una cosa. Mancini, io sono interista, però Mancini non si può giudicare come un allenatore perdente, perché Mancini è un allenatore vincente. Cioè, sfatiamo questo mito, perché un allenatore che vince due Serie A, ho sentito prima Pardo, di cui ho grandissima stima, però ha vinto due Serie A, la prima a 97 punti, anche senza la Juve, la seconda comunque l'ha vinta, e la Juventus. Però l'anno dei 97 punti, adesso, oggettivamente è un anno anomalo, senza la Juve, con squadre penalizzate. Degli anni in cui la principale antagonista dell'Inter, che era la Roma, ogni anno, ogni anno doveva vendere un giocatore all'Inter per riuscire a risanare il bilancio. È successo con Mancini, è successo con Chivo. Questo non toglie nulla, perché poi 97 sono 97, bisogna farli. Ma sul campo sono 97, c'è nel senso. Premesso che comunque è andata a vincere una Premier, cioè un allenatore che ha vinto. No, ma su questo hai ragione, è il peso di quei 97 punti di cui stavamo parlando. I giocatori che dicono non è un allenatore vincente, cioè, mi scappa un po' da ridere, perché se non è vincente Mancini, che cosa sono? Spalletti, Prandelli, che sono ottimi allenatori. Guarda, domenica ha chiamato un amico subito dopo la partita della Juve dicendo Allegri è un somaro. Sì. Quindi in realtà si può discutere tutto. Vale tutto. E dentro tutto si può discutere ampiamente anche quanto sia vincente o meno Mancini. Secondo me è più interessante discutere il fatto che Mancini ogni tanto è un po' naif, si innamora dell'idea di cambiare le cose anche quando funzionano, e credo ad esempio che questo l'Inter abbia pagato domenica sera, però è anche un suo pregio, insomma ne stiamo parlando. Marcello da Milano. Ciao a tutti. Ciao. Sentite? Sì, prego. scusate se ho giù la voce ancora, ma sono reduce dalla partita di domenica a San Siro. Io volevo dire la mia. Secondo me ho visto una squadra particolarmente slegata, premetto ovviamente che sono interista. Secondo me ho visto una squadra che aveva probabilmente ancora delle bollicine da smaltire dovute al vino magari della settimana prima. Per questo premetto, sono un po' arrabbiato anche con la società, con Mancini stesso, perché se il Natale è il 24 e sai che il 18, il 19 hai una partita che magari è stata affrontata con un po' troppa leggerezza, secondo me, festeggi dopo. Sì, però Marcello, a parte che i giocatori fanno l'ultima partita con già le valigie fatte in spogliatoio, all'Inter e ovunque, perché questa è la realtà, e due ore dopo spesso sono sull'aereo per il Sud America, però anche la Lazio ha fatto la cena di Natale tre giorni prima di Inter-Lazio, però ha vinto, no? Cioè, questo è il tema che viene fuori, la polemica che viene fuori quando poi ti va male il risultato, ma settimana scorsa hanno mangiato tutti, hanno fatto tutti la cena, hanno festeggiato tutti. Io non credo che sia lì il problema di un errore di approccio da parte dell'Inter. Parliamo di Platini e Blatter. Allora, sì. Mi fate sentire Blatter ieri. I'm sorry that I am still somewhere a punching ball. But I'm sorry that I am, as president of FIFA, this punching ball, and I'm sorry for football. Qualcuno ha contato quante volte ha detto I'm sorry Blatter ieri? No. Più volte che negli ultimi 10 anni, probabilmente. Sì, però. Marco Mensurati, Repubblica. Ciao Marco. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Tu le hai contate, no? No, poi bisogna dire anche di cosa era dispiaciuto. Sì, ha detto che era dispiaciuto di essere un punch ball. Ecco, non per quello che aveva fatto, insomma. Non un lunedì semplice, immagino, né per lui né per Platini. Anche perché la linea difensiva è una linea difensiva strampalata. Cioè, lui dice che non mettere a bilancio 2 milioni dati a un altro non è un problema etico, è un problema amministrativo. Che, so di dire, è una supercazzola. Denaturata, sì. Senti, tu scrivi oggi su Repubblica, facendo un po', insomma, il quadro di che cosa c'è intorno a questi mesi che hanno sconvolto il mondo del calcio, e scrivi di questa forte pressione degli Stati Uniti, spaventati dall'ingresso della Cina e della Russia nel mondo del pallone. Davvero c'è fantapolitica dietro un fatto che poi tu l'hai, l'hai riassunto così, insomma, ci sono 2 milioni di franchi svizzeri senza giustificazione e punto. Qual è la verità? Beh, diciamo che lo scandalo FIFA, dello scandalo FIFA la parte dei 2 milioni senza giustificazione è un capello, perché in realtà le contestazioni fatte dall'FBI, dal General Attorney di New York a Blatter, al sistema Blatter, sono molto più ampie. Ci sono 25 anni di corruzione su tutto, sui diritti televisivi, sulla maglia del Brasile, sulle federazioni, cioè intere isole costruite con i soldi rubati dalla FIFA, un appartamento al 45esimo piano di un grattacielo di Manhattan abitato solamente dai gatti di uno di quelli che aveva rubato questi soldi, che poi ha messo tutto, insomma, dai gatti, non è un cognome. Vabbè, ma il gatto ha diritto, insomma, ad avere anche una certa vista. Erano anche una trentina di coinquilini felini. Ecco, voglio dire, stiamo parlando di parossismo della tangente, insomma, qualcosa di mostruoso. Neanche noi in Italia, che pure diciamo abbiamo un certo know-how nell'ambito, insomma, potevamo immaginare una cosa. E poi ti chiedi perché improvvisamente gli americani piglino di peso questa questione e salti fuori tutto. Beh, la forza degli americani viene fuori in una maniera abbastanza clamorosa, no? Cioè, quello che vogliono fare, fanno. Poi, per chi fa un po' il nostro mestiere, siamo un po' abituati a non considerare l'ipotesi che ci siano dei buoni nella favola, e questo è un vizio, ma a volte anche una virtù. Io sinceramente faccio fatica a vedere soltanto rigore moralista nell'operato degli americani. Non che non ce ne sarebbe materia, perché al di là del cielo, appunto, parlavo dei gatti poco fa, è anche vero che insomma gli americani hanno i loro begli interessi. Ma cos'è che vogliono? Rivogliono l'edizione adesso, quella del 2018 è impossibile, rivogliono l'edizione del 2022, vogliono in qualche modo decidere chi sarà il prossimo presidente della FIFA? Ma il ragionamento qui secondo me si fa un po' complesso. Allora, diciamo, l'edizione del 2018 non la possono volere per due motivi: uno, è troppo vicina e quindi nessun paese, forse nemmeno l'America o la Germania, sarebbero in grado di organizzare un mondiale in un anno e mezzo, perché poi le assegnerebbero a fine marzo, a fine aprile, insomma, nessun paese sarebbe in grado di organizzarlo, e soprattutto se uno toglie a Putin il mondiale del 2018, secondo me finisce male. Putin è bello caldo in questa fase. Eviterei. Lascerei tranquillamente il suo mondiale, ecco, ma questo ragionamento lo fanno un po' tutti in America. Quello successivo, quello del Qatar, è diverso. Quello un po', diciamo, è già di per sé una follia pensare di fare un mondiale a Natale con gli stadi con l'aria condizionata, per quanto da quello che ho capito l'aria condizionata la paga Bill Clinton e la Clinton Foundation, che è una fondazione che è alimentata con i soldi della FIFA e del Qatar. Ma questo serve solamente a capire quanto è complesso il quadro di riferimento, ecco, non ci sono amici e nemici, né buoni e cattivi. L'impressione è che, facendo un pensierino a quei mondiali lì, gli americani hanno comunque deciso di togliere di mezzo un player che è Blatter, la cui potenza sia sul piano economico sia sul piano politico cominciava ad essere decisamente incontrollabile. Voi pensate che nel 2005 si rifiutarono di escludere l'Iran dai mondiali del 2006, nel 2006 si rifiutarono di prendere posizione a favore di Israele contro la Palestina nella bagarre su quale delle due nazionali aveva diritto di stare dentro la FIFA, si sono rifiutati di partecipare alle sanzioni anti-Russia dopo la vicenda, insomma, della Crimea. Tutta la politica di espansione di Blatter e della FIFA nel secondo e terzo mondo è una politica tecnicamente anti-atlantica. E noi pensa che siamo qui a pensare che sia solo pallone. Poi vediamo che cosa succede a febbraio. Grazie Marco. Grazie. Grazie a voi. Ciao, auguri. Grazie Marco Mensurati. Abbiamo finito qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Pietro Lacorte in regia. Noi torniamo domani dopo il GR delle 14. Ciao Pier. Ciao. Un buon Natale. Auguri a tutti. Passate buone feste e mangiate po'.